Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come sappiamo, l'Italia, se ne parla spesso, è carente nello spendere, non solo l'Italia, a dire il vero, le risorse messe a disposizione dall'Europa, tra cui i cosiddetti fondi strutturali europei, di cui spesso, insomma, restituiamo una buona parte. Con la nuova programmazione 2014-2020, che in pratica è appena iniziata, ci sono però anche alcuni cambiamenti rilevanti di cui vogliamo parlare con l'ingegner Mauro Cappello, che ha scritto un libro, Guida ai fondi strutturali europei 2014-2020, maggiore editore, è uno dei componenti del nucleo verifiche e controlli dell'Agenzia per la coesione territoriale, che è una di queste novità ed è il nuovo organismo centrale che l'Italia schiera sul campo dei fondi strutturali. Tra l'altro Cappello è anche uno dei 7 esperti individuati per riformare il sistema di spesa dei fondi a livello europeo. Buonasera Cappello. Buonasera a lei, ingegner Melis, e buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, intanto ci ricordi molto brevemente che cosa sono i fondi strutturali europei? Allora, i fondi strutturali europei sono due. Il primo è il Fondo Sociale Europeo, che è stato addirittura istituito in occasione della firma dei trattati di Roma, 25 febbraio 1957, ed è dedicato storicamente ai lavoratori e quindi alla formazione professionale. Il secondo è invece di più recente costituzione, anche se compie 40 anni, perché è stato istituito nel 1975, ed è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dedicato ovviamente in questo caso più alle infrastrutture e alle imprese. La gestione è comunque sempre regionale di quest'ultimo fondo, senz'altro, ma anche il Fondo Sociale Europeo alla fine viene gestito dalle regioni? Allora, questi fondi vengono detti a gestione immediata o gestione indiretta, okay, nel senso che la Commissione europea affida i denari allo Stato membro e lo Stato membro, insieme alle regioni, li gestisce. Ok, perfetto. Sono anche state introdotte, diciamo, delle quote obbligate che riguardano dei settori ben specifici, se non sbaglio. Esattamente, quello che lei dice tecnicamente si chiama concentrazione tematica e sono delle percentuali di spesa minima che devono essere allocate su alcune materie. Per esempio, per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale vorrei citare le piccole e medie imprese e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, che tradotto significa efficienza energetica, energie rinnovabili e tutto quanto gravita intorno a questo mondo. Quando si parla di fondi europei, l'Italia si caratterizza come uno dei paesi con bassa performance di spesa. Lei tra l'altro ha fatto l'auditor a livello europeo e allora le chiedo come prima cosa dove sta tipicamente il problema, cosa non va nei progetti che vengono presentati, se ci può fare qualche esempio. Ma storicamente l'Italia difetta di programmazione, questo perché purtroppo abbiamo una normativa che in qualche modo è sempre in movimento. Se lei pensa che il codice dei contratti ha subito in pochi anni 564 modifiche e a breve verrà ulteriormente modificato in toto perché è stata varata la nuova direttiva, ebbene questo, diciamo, questa efficienza normativa non aiuta certamente a spendere. Poi ogni tanto arrivano anche cose paradossali, vero? Beh, le succedono, ma direi che il problema strutturale non è quello. È più che altro l'effervescenza normativa, le modifiche e poi anche purtroppo in certi casi anche una certa improvvisazione. Senta, è stata introdotta qualche misura correttiva per migliorare la quantità e anche qualità della spesa? Sì, ne vorrei citare due, una a livello comunitario e una a livello nazionale. A livello comunitario vorrei dire che il problema che affligge l'Italia della spesa dei fondi strutturali affligge anche, magari in misura minore, altri paesi. Tant'è vero che la Commissione ha allungato il periodo di spesa, portandolo da 2 a 3 anni. Ok, c'è un anno in più per spendere, insomma. Esattamente, e per contro ha anche ridotto la percentuale di prefinanziamento dal 2% all'1%, quindi ci sono meno soldi e più tempo per spendere. Evidentemente il problema non è soltanto italiano. A livello italiano uno dei correttivi, uno degli strumenti più importanti siete voi, è diciamo così, esattamente, della neonata Agenzia per la Coesione Territoriale, attualmente guidata dalla dottoressa Ludovica Agro, che avrà il compito di monitorare, di sorvegliare e, laddove necessario, intervenire per anche cercare di rimuovere le criticità. Anche col commissariamento delle regioni, se ho capito? Diciamo che si ricorre all'articolo 120 della Costituzione e quindi poteri sostitutivi dello Stato. Ingegner Cappello, ci può spiegare come bisogna comportarsi volendo tentare di accedere a un finanziamento europeo? A chi bisogna rivolgersi? Prima di tutto bisogna individuare il programma operativo pertinente. Per esempio, se parliamo di un'impresa, potrebbe rivolgersi al programma operativo nazionale Impresa e Competitività oppure al programma operativo regionale relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Dentro questi programmi cerca i riferimenti dell'autorità di gestione, quindi contatterà l'autorità di gestione e da essa avrà tutte le informazioni per poter partecipare ai bandi. Grazie, grazie ingegnere Mauro Cappello. Grazie a voi per l'invito. Guida ai fondi strutturali europei 2014-2020, Maggioli editore per chi vuole saperne di più. Buona serata a tutti.